Questo è lo spazio cinema su Radio Onda Rossa con interviste su film, festival e rassegne in forma registrata. Ogni giovedì dalle ore 14 l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Eddie Bertozzi di Academy 2 che lo distribuisce per parlare del film In guerra di Stefan Breeze in uscita in sala giovedì 15 novembre. Eddie, ben trovato. Ciao, ciao. Lo raccontiamo brevemente? Sì, è un film francese ambientato nella provincia francese, in un centro in cui c'è questa grande fabbrica in cui lavorano, come in molte situazioni anche in Italia, gran parte degli abitanti dell'area. È una fabbrica che si occupa di componenti meccaniche, che produce un utile, tutto sembra andare bene, fino a quando i dirigenti decidono improvvisamente di chiudere i battenti. In questo modo 1100 operai rischiano il posto di lavoro. Parliamo di persone giovani e meno giovani, uomini e donne, che senza altre alternative si troverebbero letteralmente in mezzo ad una strada. Uno di loro, che è anche il rappresentante del sindacato all'interno della fabbrica, si batte contro questa decisione e sarà una lotta letteralmente senza esclusioni di colpi per cercare di salvare il proprio posto di lavoro e quello di tutti i colleghi. Cosa ti ha convinto maggiormente del film? Guerra è un film di impegno civile come non se ne vedono veramente da anni. Rientra appunto all'interno di questa tradizione cinematografica che ha una grande e gloriosa storia, che il cinema italiano spesso ha saputo sfruttare al meglio, ma non l'abbiamo più rincontrato sul grande schermo da un po' di tempo a questa parte con questa forza, con questa potenza, con questa rabbia. È un film, penso che a tutti piaccia andare al cinema in qualche modo e commuoversi e piangere. Ecco, con In guerra si fa l'esperienza di piangere per la rabbia, ma che poi è una rabbia costruttiva che ci fa riflettere su tante situazioni che coinvolgono, se non noi direttamente, tante persone e situazioni che conosciamo. Della regia cosa sappiamo? Stéphane Brisé è uno, oserei dire, dei grandi autori francesi di questi ultimi anni. È un regista che ha all'attivo una decina di film. Gli ultimi 3-4 film sono stati anche distribuiti in Italia, sempre da Academy 2, che è una grande fan del regista. Sì. Lo ricorderete probabilmente con La legge del mercato, un altro film sempre con lo stesso protagonista di In guerra, Vincent Landon, e un altro film suo distribuito è stato Una vita, molto diverso da questo In guerra, era un film in costume. Vedrete che il film è una lezione magistrale di messa in scena. È uno di quei rari film in cui i contenuti, i messaggi, la recitazione non sono organismi separati, ma passano tutti attraverso una grande visione registica, che è senza compromessi, assolutamente coerente con il suo obiettivo. Insomma, non mancherà di non lascerà indifferenti veramente nessuno. Che tu sappia che genesi ha avuto? È basato ad esempio su una storia vera? Sì, diciamo che il regista si è ispirato a una serie di casi ovviamente avvenuti in Francia, di fabbriche che hanno vissuto un destino simile e i sindacati locali che hanno cercato di rispondere all'emergenza in qualche misura. Però il film in realtà è più universale, non parla di una situazione francese che non può essere tradotta in un altro contesto. Pensiamo solamente all'Italia. Vedendolo ritroverete per filo e per segno la storia dell'Ilva, di tante altre fabbriche di cui continuiamo a sentire parlare anche in questi giorni al telegiornale, che rischiano un destino simile. In Francia com'è andato? In Francia il film innanzitutto è passato in concorso all'ultimo Festival di Cannes, dove ha riscosso alla proiezione ufficiale un'ovazione mai vista prima. Tutti i giornali, compresi quelli italiani, hanno riportato la notizia. Infatti molti degli operai, sia quelli che hanno recitato nel film che altre associazioni operai francesi, hanno partecipato alla proiezione. Quando parlo di partecipare non intendo solo guardare il film. Certo. Ma hanno letteralmente combattuto assieme ai protagonisti nel corso della proiezione, che è stata interrotta più volte con applausi a scena aperta fino appunto alla grande standing ovation finale. Il film a Cannes ha avuto delle ottime recensioni, è uscito in sala in Francia a ridosso del festival dove ha riscosso un buon successo e soprattutto è stata notata un'altra volta, oserei dire, la grande performance attoriale di Vincent Landone, che ormai Uno specialista. è un attore per il quale ormai non esistono più aggettivi, è oltre la bravura, è oltre l'eccezionale, è un attore che, come lui stesso ha detto in alcune interviste, ormai non recita più, lui vive all'interno dei suoi personaggi, e questo poi è il segreto dietro alla resa straordinaria della sua recitazione. Di che uscita sarà? Sarà un'uscita assolutamente di qualità. Il film uscirà intanto in questa prima settimana in circa 35 sale, un po' in tutta Italia, partendo da una serie di cinema specializzati nel cinema d'autore e nel cinema di qualità. Ci auguriamo un buon successo in questo primo weekend di programmazione, in modo tale che il film possa avere una vita lunga e che possa anche espandersi in tutte quelle città che non riusciamo a raggiungere ora in questa prima settimana di programmazione. In guerra di Stéphane Brisé, in sala da giovedì 15 novembre. Un saluto e un ringraziamento ad Eddie Bertozzi di Academy 2 che lo distribuisce. Eddie, un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Con Daniele De Michele in arte Don Pasta per parlare del suo documentario I Villani, in uscita in sala da mercoledì 14 novembre. Daniele, ben trovato. Ciao, ciao, e saluti a tutti. Come lo descriveresti? Come lo presenteresti il tuo lavoro? Di definirlo in modo difficile, è un film militante antropologico sulle resistenze nel mondo del cibo. Sì. Senti, come nasce tutto? Ma io faccio spettacoli sul cibo. Diciamo, cominciamo girato tutta l'Italia, mezzo mondo, facendo questo spettacolo, cominciavo a osservare un po' come la gente mangiava, chiaramente parlando di cibo, e mi accorgevo che stava cambiando tutto. Cioè, da un lato c'era una grande moda del cibo, del food, del cucinare, dall'altro quelli che gli ingredienti li fanno, che sono i contadini, i pescatori, gli allevatori, stavano scomparendo. Visto che la cucina italiana si basa su questo, ho detto c'è un problema serissimo. E quindi sono andato a fare qualcosa che drammaticamente in pochi fanno, cioè andare a È stato un viaggio articolato perché sono anche luoghi distanti uno dall'altro. Queste persone come le hai scovate? Che tipo di ricerca hai fatto? Serie di reti spesso di scegliere le persone che poi avrebbero fatto parte del documentario, che sono i Foro Castro, c'è stato un lavoro di centinaia di interviste fatte in tutta Italia, appunto, in cui in ogni provincia avevo, diciamo, i miei spacciatori, i miei informer, i miei spacciatori di nonnina, diciamo. Daniele, che impressione hai ricevuto da questa ricerca? L'impressione per me è fondamentale, nel senso che mi sono ritrovato a trattare una materia ispirata da Gramsci, da Martino, da De Sena, da Soldati, nel senso che da Carlo Levi, cioè sono partito da quel tipo di lavoro, nel senso che se si vuole capire un fatto storico, cioè e comunque le sue posizioni, le problematiche, bisogna partire dalla pancia delle persone, in un certo senso. E la sorpresa è stata che il popolo, che è così condannato a se stesso, in balia di populisti, in balia di negligenze vergognose da parte dell'intelligenza, un ventre duro, il controllo del ventre molle, cioè pieno di gente che resiste perché è giusto resistere, gente che produce in modo sano, perché l'ha sempre fatto, rispetta la terra, l'ambiente, il mare, proprio perché se tu vuoi mangiare bene devi farlo in questo modo, senza troppe menate, insomma, gente comune. Quindi ho scelto di intervistare solo persone comuni, che non siano produttori iscritti a qualche, cioè, nel senso, comunque sono delle persone che secondo me, che hanno un'idea di produzione artigianale che prescinde da tutte le mode attuali, in un certo senso. A questa ricerca si unisce anche un certo gusto per l'immagine dal punto di vista cinematografico nel tuo lavoro. Ma là la cosa era, diciamo, io prima di fare il film ho fatto un lungo lavoro, appunto, di installazioni video, in cui andavo nelle città, nelle campagne, a intervistare queste persone e facevamo queste performance multimediali in cui remixavamo queste immagini. Quindi avevamo, diciamo, da un lato un'idea comunque di sperimentazione attorno all'immagine, cioè non voleva essere un'idea né giornalistica né didascalica di parlare del cibo, oltre che il fatto che dietro che da un punto di vista antropologico puro e duro. La questione della forma era una questione forte, nel senso che potevamo o fare un lavoro alla De Martino, quindi camera e spalla e storia, in un certo senso, sia invece fare un lavoro alla De Seta, cioè partire dal lavoro di queste persone e trasformarlo in immagine cinematografica. Ci siamo detti con Salvatore Landi, che è il direttore della fotografia, veramente di grande rilevanza, che secondo me è un giovane direttore, ma eccezionale, che la chiave giusta per mostrare la grandezza di queste persone, dei luoghi puri di cui loro si prendono cura, andava fatto proprio un esercizio di provocazione sull'idea dei villani, che già dal titolo, peggiore degli insulti, invece per noi è la più grande forma di emancipazione del contadino, in un certo senso. E le immagini vanno in questa direzione, cioè proprio dove lì si pensa che questi sono brutti, sporchi e cattivi, ci si accorge che tutti potremmo andare a vivere dove vivono loro, perché vivono nelle forme di paradisi autoctoni e autarchici, in un certo senso. Quindi andava fatta una fotografia meravigliosa, proprio per mostrare quanto l'idea che si ha del mondo rurale, che la gente pensa sia desueta, invece è un'idea sbagliata, perché invece questi, con tutte le durezze, fanno forse la scelta giusta. Da oggi un tour in tutta Italia, accompagnato dalla tua presenza, giusto? Sì, è chiaramente un film documentario distribuito da Zalab, quindi da Andrea Segre, che ha scritto con me il film. E chiaramente un film che ha bisogno di una grande presenza, nel senso che comunque è un documentario, nel mondo della distribuzione attuale già un documentario non è cosa facile, quindi abbiamo deciso di fare, diciamo, una distribuzione posta a posta, praticamente, cioè proprio paese per paese. Abbiamo cominciato con le prime presentazioni nei paesi simili dei personaggi del documentario, e poi adesso comincia il vero giro in tutte le città italiane, molte delle città. Ricordiamo I Villani, documentario in uscita in sala mercoledì 14 novembre. Un saluto e un ringraziamento al regista Daniele De Michele. Daniele, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. A presto, ciao, grazie. Ciao. Ciao. Con Paolo Minuto di Cineclub Internazionale Distribuzione per parlare del film Styx di Wolfgang Fischer in uscita in sala giovedì 15 novembre. Paolo, ben trovato. Grazie a voi per avermi di nuovo invitato e buonasera a tutti gli ascoltatori. Una produzione tedesco-austriaca. Raccontiamo brevemente la storia di questo lavoro. Styx riguarda in qualche modo tutti noi, e nella storia la protagonista è una dottoressa tedesca e quindi non ha particolari problemi di reddito e si mantiene una barca, uno yacht a vela di stanza a Gibilterra, da cui parte in vacanza decisa ad andare verso l'isola di Ascensione, che è quest'isola artificiale costruita da Charles Darwin. È un'isola che prima era semplicemente vulcanica, pressoché deserta, c'erano solo liane, e Darwin ha portato piante da tutto il mondo e le ha piantate lì, e quindi è cresciuto una specie di paradiso naturale artificiale, e questo già è molto interessante dal punto di vista della metafora. E lei si dirige navigando da sola, piena di attrezzature, di viveri, parte da Gibilterra, che sono anche scelte in modo simbolico dal regista in quanto sono le colonne d'Ercole, la fine dell'Europa, l'inizio di un altro mondo, naviga l'oceano Atlantico verso l'isola di Ascensione. E naturalmente lei è molto molto brava a navigare da sola, ma è bravissima ad affrontare i problemi del mare e dell'oceano. Se non che qualcosa accade, un incontro particolare, perché navigando può succedere anche che incontri qualcuno che naviga in senso opposto e che cerca anche lui, va anche lui o anche loro in questo caso, perché sono più di uno, verso un paradiso. Ma il paradiso che cerca una benestante dottoressa tedesca è un paradiso naturale, il paradiso che cercano altri esseri umani che invece navigano in senso opposto da sud verso nord è il paradiso semplicemente della vita ordinaria, sicura, tranquilla, dignitosa, in cui i diritti della persona, i diritti fondamentali della persona siano rispettati. Incontrandosi a metà strada nascono poi tutta una serie di evoluzioni che è bene vedere e scoprire vedendo il film, e quindi questo lo lascio poi al piacere, all'interesse dello spettatore, perché il film è molto fisico, quindi il racconto con pochi dialoghi, e quei pochi che ci sono in inglese, quindi comunque facilmente comprensibile, assolutamente, molto fisico, ma quindi anche molto empatico, per cui seguire il film è un'emozione nelle sue evoluzioni. E poi le domande che il film pone, perché è un film che sceglie di non dare risposte ma di porre domande, le domande che pone dopo il piacere di aver affrontato, il piacere emotivo di aver affrontato questa storia come spettatori, poi ci si pone delle domande. E questo è un punto molto interessante che provoca il film nel senso migliore del termine, provoca perché è una provocazione artistica, ma anche culturale e anche umana. Quali sono gli elementi che te lo hanno fatto apprezzare maggiormente? Ma è proprio questa capacità di unire la qualità cinematografica, per cui la fisicità del film fa sì che le immagini siano fondamentali, molto di più che in altri tipi di film. Qui il dialogo pressoché non esiste, è strumentale in quei pochi casi in cui esiste, ed esistono le scene, le immagini e l'impatto che esse creano, e quindi questo è molto cinematografico e molto empatico. D'altra parte però il tema che viene fuori da ciò che succede e viene, si sviluppa nella testa, nella mente, nei pensieri dello spettatore è molto forte. Ma la forza del tema cresce dopo aver visto il film. Quindi il film è molto importante nel suo porsi nei confronti dello spettatore, ma non è per niente pesante. È cinematograficamente molto, formalmente molto coinvolgente, e d'altra parte dà da pensare, da riflettere, proprio perché non dà soluzioni, ma ci mette sullo stesso piano della protagonista e di fatto parla di noi stessi come esseri umani, come persone e anche, perché no, come cittadini di questa Unione Europea. Di Wolfgang Fischer cosa sappiamo, Paolo? Ma lui in realtà non era molto conosciuto prima di questo film, nel senso era conosciuto in Germania, ma si è rivelato al mondo cinematografico internazionale proprio con Stix. Lui ha un gruppo di collaboratori come la sceneggiatrice e il produttore che sono come lui austriaco-tedeschi, perché lui è nato in Austria e poi adesso vive in Germania. E la sceneggiatrice è anche, ha studiato addirittura a scuola di cinema a Bolzano, quindi anche in Italia. Questo gruppo ha lavorato insieme molto bene proprio per Stix, che è il film, diciamo, della sua affermazione internazionale, perché è stato scelto come film di apertura di Panorama a Berlino di quest'anno, e con questo quindi ha avuto una sua consacrazione. D'altra parte tutti i premi che ha vinto da Berlino e Label Europa Cinema, che è il premio dato dagli esercenti del cinema del sé, poi è tra i tre finalisti del premio Lux, e proprio domani c'è, proprio mercoledì c'è la cerimonia finale di premiazione al Parlamento Europeo, e poi i vari premi che sta ottenendo in giro per il mondo, e in particolare il premio Diritti Umani nel Cinema che gli ha assegnato la Germania, che gli consegneranno a dicembre. In questo senso il suo gruppo è stato compatto e ha lavorato per 9 anni, ecco perché questo è il film della sua affermazione, perché lui su questo film ci ha lavorato 9 anni. E quello che lui dice è che dopo 9 anni ha trovato la situazione molto peggiorata rispetto a come l'avevano pensata ed affrontata quando hanno scritto questo film. Mm-hmm. Naturalmente, come dicevo prima, è un film fisico, quindi un film d'avventura, e proprio per renderlo, da un punto di vista intendo cinematografico, un film d'avventura, ma proprio per renderlo un film d'avventura da un punto di vista scenografico e di sceneggiatura, pur avendo, come ripeto, questo contenuto comunque forte, hanno girato tutto in mare ed era molto difficile farlo. Sono stati per 42 giorni sullo yacht a vela di 12 metri, 10 persone, compresa la protagonista Susanne Wolf, molto brava, scelta proprio perché molto fisica, e questo naturalmente ha provocato diverse difficoltà tecniche, ma il risultato è eccezionale, perché la prospettiva della protagonista è reso in modo talmente realistico che ci sentiamo anche noi su questo yacht, su questa barca, e viviamo dal suo punto di vista tutti i pericoli e i dubbi, anche anche i dilemmi sulle scelte da compiere caso per caso durante la navigazione. Quindi questo è un punto veramente importante del film. Paolo, in quante sale lo porterete? Ma questo devo dire che gli esercenti hanno apprezzato molto il film alla proiezione delle giornate professionali di Mantova, per cui credo che abbiamo un'uscita molto importante, riusciamo a coprire già 20 città in partenza e già ce ne sono altre prenotate per la seconda settimana, per cui credo che per un film da sé indipendente sia un'uscita davvero importante, perché stiamo parlando di sale di un certo livello anche di rapporto col pubblico, e per cui sono molto fiducioso che poi al pubblico piacerà e il film possa addirittura crescere, e come è tipico della distribuzione cinematografica internazionale arriverà in profondità nel corso di vari mesi, arriveremo in tantissime parti d'Italia, anche nelle più piccole città di provincia, perché ci interessa e ci piace avere questo rapporto col pubblico approfondito e diffuso in tutta Italia. Stix di Wolfgang Fischer, in uscita in sala giovedì 15 novembre. Un saluto e un ringraziamento a Paolo Minuto di Cineclub Internazionale Distribuzione. Paolo, un abbraccio, un in bocca al lupo e alla prossima. Grazie, viva il lupo, alla prossima. Alessandra Celesia, regista del documentario Anatomia del Miracolo, in tour a partire dal 13 novembre. Alessandra, ben trovata. Buongiorno, buongiorno. Lo descrivi questo tuo lavoro? Sì, questa è la storia di tre donne che non si incontrano mai, molto diverse tra di loro, una trans che è fedele, fedelissima di una Madonna che fa miracoli, un'antropologa in sedia a rotelle che il miracolo non l'ha avuto ma che è diventata specialista del culto mariano, quindi di questa Madonna in particolare, e poi una donna, una coreana, una pianista coreana un po' lost in translation a Napoli, che alla ricerca della sua vita anche lei incappa sempre in questa Madonna che fa miracoli. È una Madonna ferita che ha una specie di livido sulla guancia, che è proprio questo livido che genera i miracoli. Si fa una storia delle donne ferite che in qualche modo trovano il modo di rimanere in piedi attraverso i miracoli del quotidiano. Come nasce tutto? Nasce da un mio viaggio a Napoli, veramente da turista, per caso mi sono ritrovata in questa produzione della Vergine, ed è stato un impatto molto forte, non dal punto di vista religioso, perché non è il punto di partenza del film, ma proprio vedere come quando non sai più a cosa aggrapparti, c'è una speranza che è più forte di tutto, non necessariamente quella divina, ma una speranza di qualcosa di più misterioso di quello che conosciamo in terra, diciamo. E è una processione molto, molto impressionante dal punto di vista proprio emotivo, perché la gente si rotolano, si rotola per terra, piangono, gridano, c'è un'espressione corporea assolutamente fortissima. E quindi dopo questo impatto ho cominciato, per curiosità, insomma, a lavorare intorno a questo tema e ho incontrato questi personaggi fantastici che poi mi hanno fatto decidere di passare il film. Ecco. Cosa ti ha impressionato di più in queste tre figure? Direi la capacità di resistenza. In particolare Giusy e Fabiana raccontano due diversità molto forti. Fabiana la diversità sessuale, che ha saputo assumere con una forza incredibile, cioè Fabiana va dritta per la sua strada e niente la può fermare, e Giusy la capacità di resistere a quello che è un po' un cliché forse dalle sue parti, cioè se tu sei una donna al sud in sedia a rotelle non puoi che non credere nel divino per cercare di essere aiutata, invece lei ha una specie di laicità proprio francese alla Voltaire, che dice io no, io mi accetto così come sono, con le mie ferite, questa sono io e mi dovete amare così, non ho bisogno di un miracolo, va bene così. Che modalità hai scelto per raccontarle? È un film che secondo me si situa un po' alla frontiera tra il documentario e la fiction, cioè ho filmato i miei personaggi con molta attenzione all'estetica, alla narrazione. Ho avuto la fortuna di poter passare molto tempo prima di filmare con loro, e quindi quando siamo arrivati al momento di girare avevo con me delle persone che partecipavano attivamente al film, che erano come degli attori della propria storia, e questo secondo me si sente molto nel film, cioè hai l'impressione che certo è tutto vero, ma è anche tutto costruito come in una fiction. L'uscita prevede un tour in cui tu sarai ad accompagnare il documentario nelle presentazioni? Sì, assolutamente. Salto un po' di date, arrivo il 23, dove saremo a Napoli. Quella sarà una data molto importante. Per avere informazioni ci lasci dei riferimenti web? Sì, assolutamente. È la Sarraz Picture che distribuisce il film, Sarraz, S-A-R-R-A-Z di Torino, sul loro Facebook, Anatomia del Miracolo, si trovano tutte le informazioni e tutte le uscite. Anatomia del Miracolo di Alessandra Celesia, in tour in Italia a partire dal 13 novembre. Un saluto e un ringraziamento alla regista Alessandra, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, a presto, grazie mille. Thank you. Federico Chiacchieri di Sentieri Selvaggi per parlare della presentazione del numero zero della rivista cartacea Sentieri Selvaggi 21st il prossimo 16 novembre. Federico, ben trovato. Ciao, ciao, grazie. Immagino intanto nella sede di Sentieri Selvaggi. Immagini bene, sì, siamo sempre qui. Allora, raccontaci un po' di questa nuova avventura. Intanto un regalo che ci siamo fatti e che vogliamo fare un po' ai nostri tanti lettori. Ormai Sentieri Selvaggi è una realtà trentennale, quest'anno facciamo 30 anni, essendo nati nel 1988, e siamo una realtà irrequieta che non si ferma mai, quindi che non, come dire, che non trova mai una sua collocazione definitiva. Siamo nati come rivista, poi siamo casa editrice, di nuovo rivista, scuola di cinema, facciamo, organizziamo eventi, facciamo tante cose. Magazine, questa rivista qui è, come dire, è figlia di un magazine digitale diretto da Aldo Spiniello e Carlo Valeri, che esiste già da diversi anni, dal 2012. Per questo trentennale abbiamo deciso di farci questo regalo, quindi questo ritorno alla rivista cartacea. Vuoi sapere i motivi? Beh sì, dici tutto a questo punto. Dai, i motivi sono tanti, in parte poi insomma li proviamo a raccontare sia nel editoriale di questo, che è un numero zero che presentiamo venerdì 16 qui nella nostra sede alle 19, sia nell'editoriale sia un po' in questo speciale che si chiama, questa cover story che si chiama Ritornare umani, corpi, confini e identità nell'era digitale. Il concetto è che fondamentalmente noi siamo in realtà totalmente dentro l'ambito del digitale, siamo state tra le prime riviste di cinema online in Italia, siamo tuttora una delle più seguite. Quindi siamo molto dentro le pratiche del digitale. Tuttavia in questi anni, in particolare da quando è nato quel meraviglioso strumento diabolico che è lo smartphone, l'iPhone, lo smartphone. Sente che infatti all'interno c'è una bella foto proprio di Steve Jobs, del 9 gennaio 2007, che è l'anno in cui è nato tutto quello che siamo diventati oggi. Oggi siamo diventati un po' il popolo degli schermi, passiamo le giornate davanti agli schermi, tutte le nostre informazioni, le nostre comunicazioni di lavoro, private, affettive, insomma, passano attraverso gli schermi. L'idea era che fosse giunto il momento, probabilmente siamo ancora in anticipo, ma Sentieri Selvaggi ce l'ha un po' nel suo DNA questo di arrivare un po' presto nei cambiamenti poi antropologici, no? dei consumi culturali. L'idea è che è arrivato il momento di trovare anche degli spazi diversi in cui fermarsi, in cui potersi mettersi comodi e leggere e praticare la lettura in contenitori che una volta erano la normalità, ma che oggi sono diventati una meravigliosa eccezione. Quindi qualcosa che potrebbe essere un po' nostalgico per chi ha un po' più di anni, che ritorna alle vecchie sane abitudini, e magari per una nuova generazione può diventare invece una nuova abitudine, soprattutto per i cosiddetti millennial che non hanno mai praticato la cultura del prodotto cartaceo, l'idea di trovare uno spazio ad hoc dove in qualche modo, infatti il prodotto è pensato anche in quel senso, è un prodotto anche molto piacevole da toccare, da vedere, è abbastanza qualitativo, ecco, dal punto di vista tipografico. In controtendenza rispetto alla tendenza all'abbandono del cartaceo? Esatto, molto in controtendenza. Del resto noi siamo passati online quando non c'era nessuno online, quindi anche allora era una sorta di controtendenza. Pensiamo che però questo ritorno ai prodotti analogici o atomici, chiamiamoli come ci pare, sia un po' una tendenza quasi inevitabile di questa digitalizzazione della nostra vita quotidiana. Quello che sta accadendo in ambito musicale con il vinile, insomma, è una cosa che sappiamo un po' tutti. Stiamo vedendo le difficoltà che il libro digitale sta avendo, in particolare negli Stati Uniti c'è stato un grande ritorno del prodotto cartaceo. Non è improbabile che questa strategia non riguarderà soltanto Sentieri Selvaggi, ma riguarderà un'intera industria, che però probabilmente non potrà fare finta di niente, cioè non si può pensare di fare un cartaceo come lo facevamo 20 anni fa, ma sia nelle strategie comunicative, nel modo in cui ci approcciamo ai testi e alla parte d'aspetto grafico, e anche nell'arricchimento multimediale del prodotto stesso, bisogna pensare a un prodotto che sia appunto del XXI secolo e non del Novecento. Come sarà organizzato il giornale? Allora, il giornale che appunto presentiamo venerdì con questo numero zero, che uscirà appunto il 16, che è un numero che non verrà venduto tecnicamente, il primo numero che verrà venduto sarà a fine gennaio, il primo numero, questo è un numero che noi utilizzeremo per lanciare una campagna di sostegno e di abbonamento per questa rivista, quindi questo numero potrà essere acquistato o tramite abbonamento o tramite donazione negli eventi che noi facciamo, ma anche a distanza, ovviamente ci sarà una pagina web dove ci saranno tutte quante le informazioni per poterlo avere. A livello contenutistico, se abbiamo tempo per farlo, no, volentieri, nel senso che noi abbiamo strutturato il prodotto, che è un prodotto di circa un centinaio di pagine, quindi è un bimestrale, che come dire, nasce su un bimestrale che era Sentieri Selvaggi Magazine, che esiste appunto dal 2012, ma che è stato notevolmente rivisto, ristrutturato e soprattutto anche ampliato. Abbiamo fondamentalmente 8 macro aree all'interno che sono un po' flessibili poi come numero di pagine, all'interno del quale poi ci sono tante sotto sezioni. Me la leggo così, in ordine di come sono questo numero, abbiamo una parte dell'apertura dove c'è un editoriale, dove ci sono delle immagini forti che a noi ci hanno colpito, in questo numero qua c'è anche una piccola breve guida introduttiva proprio a come è strutturata la rivista. Poi abbiamo un'altra area che si chiama che è la cover story, che è appunto l'approfondimento che noi facciamo ogni mese sulla storia della copertina. E appunto questo mese è un po' sul rapporto tra i corpi e l'identità digitale. Poi abbiamo 3 aree, che una si chiama Tempi, Out from the Past, e un'altra si chiama Spazi, e un'altra si chiama Tempi in the Future, che sono 3 aree in cui proviamo un po' a muoverci tra il tempo e lo spazio, presente, passato e futuro, anche se non ci piace più il no future punk di vecchia data. E quindi insomma nella prima parte andiamo un po' a rileggere il cinema del passato, però con un'ottica un po' anche del presente, quindi ragioniamo sul vintage, no? su quello che è il passato che in qualche modo viene rivisto attraverso le lenti dell'oggi, raccontiamo delle biografie, questo nome per esempio è una biografia su Sharon Tate, che insomma è, tra l'altro sarà la protagonista del prossimo film di Quentin Tarantino. Poi abbiamo una bella area dove ogni numero noi approfondiremo, che si chiama Archivio, Storie del Cinema, dove ogni numero andremo a recuperare dei materiali che non si trovano più, che sono di difficile reperimento, quindi c'è tutto un lavoro veramente da archivista di andare a ricercare questi materiali che per gli studiosi, gli appassionati non sono facili da trovare. Questo numero, cioè abbiamo un'incredibile intervista che André Bazin, il celebre critico fondatore di Cahiers du Cinéma, di cui quest'anno ci sono i 100 anni della nascita, fece questa bellissima intervista sulla televisione con Roberto Rossellini e Jean Renoir, quindi una chicca clamorosa. Poi abbiamo invece un'altra area che si occupa più dello spazio, della città, delle traiettorie urbane, e qui insomma abbiamo, adesso senza che andiamo nel dettaglio di ogni cosa, certo, parliamo un po' di architettura, di fotografia, di arti visive, insomma parliamo un po' anche del neorealismo, ma del neorealismo nel senso del documentario dell'oggi. C'è un bel ritratto di questo fotografo giapponese, che è un fotografo DJ, che si chiama RK, credo si pronunci così, RK per dirla alla romana. Abbiamo poi un'altra area che si chiama Altre Narrazioni, dove ogni volta affronteremo anche qui arti visive, quindi questo numero c'è, pubblichiamo degli estratti da una graphic novel di Charles Forman che si chiama The End of the Fucking World, di cui è molto conosciuta la serie TV, una serie TV per teenager che è su Netflix. La un'area, poi abbiamo un'area tempi dove invece facciamo un po' di riflessioni proprio sul tempo, sul di oggi, su aree come possono essere il videogioco, i mercati, le tracce digitali, quindi parliamo per esempio di cinema e blockchain. C'è una lunga intervista a Marco Müller, sul ex direttore della Mostra del Cinema e del Festival di Roma, sul mercato del cinema del futuro. Insomma, ci sono dei riattraversamenti testuali di alcune mappe di videogiochi, insomma è un'area un po' aperta agli scenari del futuro. Poi abbiamo due cosiddette long form stories, che è un'altra bella sezione, dove abbiamo una bellissima lunga intervista con il grande disegnatore Vittorio Giardino e un bel pezzo della nostra Fabiana Proietti su Ryan Murphy, che è uno degli autori di oggi, uno dei grandi showrunner della serialità televisiva, proprio perché noi siamo una rivista di cinema, ma oggi insomma è già da almeno 10 anni il cinema è fatto molto di serialità televisiva. Infine, per essere rapidi, abbiamo un'area di rubriche che abbiamo chiamato il Corpo Espanso, dove ci sono diverse nostre belle firme che provano un po' a raccontare a modo loro i vari sensi, no? Collegati un po' con l'immaginario più o meno cinematografico. Insomma, la nostra è una rivista di cinema, ma che vuole ampliare gli orizzonti. Certo, pensiamo che il cinema oggi sia un po' dappertutto, è un movimento espanso un po' ovunque. Federico, in chiusura, quanti redattori e redattrici? Guarda, noi abbiamo un gruppo ristretto di una decina di persone, okay. Però poi in realtà abbiamo tantissime aree di collaboratori, certo. Di firme nuove, di interventi esterni. È una rivista che non è fatta solo dal gruppo classico di sentieri di selvaggio, ma si avvale di belle collaborazioni. Ogni numero ne aggiungeremo delle altre, quindi è un corpo che si apre all'esterno. Ci lasci i riferimenti web per saperne di più? Sempre sentieriselvaggi.it, e lì avrete tutte quante le informazioni, in particolare da venerdì, dove abbiamo svelato il tutto nella nostra presentazione. Chi vuole, venerdì alle 19 siamo qua, facciamo anche un brindisi per festeggiare questo ritorno, perché in realtà noi manchiamo dalla carta come rivista dal 98, quindi insomma sono 20 anni. E allora ricordiamo la presentazione del numero 0 della nuova rivista cartacea Sentieri Selvaggi 21st a Roma presso Sentieri Selvaggi il prossimo 16 novembre. Un saluto e un ringraziamento ad uno dei curatori, Federico Chiacchiari. Federico, un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie a te e a tutti quanti. Con Nadia Pizzuti, una delle curatrici della rassegna Il colonialismo italiano raccontato dalle donne, una seconda tranche con 3 appuntamenti alla Casa Internazionale delle Donne il 15, 22 e 29 novembre. Nadia, ben trovata. Ciao, buongiorno. Raccontaci. Allora, questa è dunque la seconda edizione in questa rassegna che appunto si intitola Il colonialismo italiano raccontato dalle donne. E non è solo, non sono solo film diretti da donne, ma anche film in cui le donne hanno un ruolo importante, no, come protagoniste. E questa volta, sempre nell'ottica, no, di fare insomma, di favorire il ritorno del rimosso, no, sul colonialismo italiano, che appunto non è entrato davvero nella memoria collettiva, perché c'è sempre questa amnesia che viene denunciata tra l'altro da uno dei film che presentiamo. Abbiamo messo il focus questa volta un po' di più sui corti, sui film dei giovani afrodiscendenti, di un gruppo, no, in particolare che si chiama Collettivo M, e poi anche un'altra novità che presenteremo all'interno di questi 3 appuntamenti, dei film coloniali. E quindi magari posso, se vogliono entrare un po' nei particolari, il giovedì prossimo, il 15 novembre alle 18.30, ci sarà la prima puntata che abbiamo intitolato Amnesia, afro-italiani e afro-italiani, appunto in cui ci sarà un film un po' sperimentale di 30 minuti che proprio vuol denunciare la politica di amnesia, no? Che c'è in Italia sul passato coloniale, attraverso tra l'altro l'analisi del libro di testo delle scuole, no? Che insomma, è abbastanza nuova come approccio. Sì. E in tradotto da Alfonso Severini, che è un'artista, ricercatrice che vive a Londra. E tra l'altro questo è un film che è stato proiettato anche sulla Sera dei Popoli, no? Nel documentario a Firenze. E abbiamo selezionato quattro corti del collettivo N. Allora, cos'è il collettivo N? È un gruppo di registi e altri professionisti dell'audiovisivo che sono quasi tutti di origine africana e che appunto lottano per una rappresentazione giusta del corpo nero nel cinema italiano. E questi giovani hanno partecipato a questo premio Media Arti, che è indetto dal Ministero dei Beni Culturali, e appunto vuol promuovere il protagonismo di questi giovani di seconda generazione, no? Quindi figli di migranti residenti in Italia, che non sono più migranti perché sono seconda generazione, quindi dovrebbero avere in teoria tutta la cittadinanza italiana, anche se purtroppo non sempre ce l'hanno. E di questi quattro corti, allora presentiamo La festa più bellissima di Lodi Cristan, la storia di un bambino che vuole festeggiare questo compleanno ma che viene immaginato dagli altri e poi non racconta il seguito, c'è un colpo di scena. Il secondo, Amaradan, è di Amin Noor, che è un regista di origine somala, e che appunto questo introduce anche il concetto del l'anti-italian fascista, cioè era appunto un giovane africano adottato da una famiglia italiana bianca che ha questo, cioè ti dà lo squadrismo così influenzato da amicizie negative, e poi dopo ci sarà però uno sviluppo positivo. Il terzo è Ali Velate dell'italo-algerina Nadia Kibbout, che tra l'altro è la presidente del collettivo N, e racconta l'incontro tra una giovane araba velata, lei stessa che lo interpreta perché lei è anche un'attrice, e una donna che lei raccoglie attraverso il sito BlaBlaCar. E poi l'ultimo è molto attuale, realizzato da Tosetta Abraham, che è una regista e attrice, e si chiama La pace all'improvviso, ed è molto attuale perché lei ha girato una serie di interviste per strada così sulla pace, sull'accordo di pace che è stato raggiunto, no, di recente quest'estate, dall'Etiopia all'Eritrea. Quindi questo permetterà anche di parlare di un tema molto attuale, no? Cosa può significare questo accordo anche non solo sulla situazione dell'Etiopia all'Eritrea, ma anche sul discorso dell'emigrazione, no? Perché sono, come sappiamo, masse di eritrei che sfuggono dal regime dittatoriale, no? Che c'è in Eritrea. E vedremo poi appunto alcuni dei giovani registi di questo collettivo parteciperanno a questo incontro, e poi ci sarà anche Leonardo Di Franceschi, che è un ricercatore su Roma 3. Le altre due puntate sono appunto giovedì 22 novembre, tema film coloniale, l'immagine delle donne. Ecco, questa è anche la novità, abbiamo scelto di mostrare dei film coloniali, quindi girati negli anni 30 sostanzialmente. No, uno è girato all'inizio del secolo, quando ancora non era stata conquistata l'Etiopia, e l'altro invece nel 38, e sono interessanti perché appunto c'è, qui emerge molto il legame tra colonialismo, razzismo e sessismo, no? Perché c'è questo tema dell'attrazione erotica sul corpo femminile indigeno e meticcio da una parte, dall'altra però c'è quella, poi ci fu la condanna, no, delle unioni tra italiani bianchi e queste donne indigene, e quindi c'è questo discorso un po' salvifico sull'arrivo delle colonie italiane che così congiurarono il pericolo di tante unioniste tra italiani e donne indigene. Quindi questo, sono molto interessati, sono due film che ci ha prestato molto gentilmente la Cineteca, quindi il Centro Sperimentale della Cineteca Nazionale. Quindi uno è Matrimonio Abissino, un corto, e Sotto la Croce del Sud, che è appunto un lungo di Guido Brignone girato nel 38, in cui proprio è anche ridicolo perché si vede l'attrice Doris Duranti, un'attrice famosa all'epoca, si è vestita da noticia, è ambientata nella colonia italiana. E avremo lo storico Alessandro Triulzi e poi Maria Coletti, che è del punto della Cineteca, che è il ragazzo di questi temi. L'ultimo incontro, giovedì 29, torniamo un po' all'oggi, l'abbiamo intitolata Sommessi e Salvati. Ci sarà un corto di Martina Melilli che si chiama Mom, I'm Sorry, che appunto è un dialogo con migranti che sono sopravvissuti alla traversata del Mediterraneo,

Allora, ricordiamo la 17ª edizione del Reggio Film Festival International Short Film Contest dall'8 al 19 novembre. Un saluto e un ringraziamento al direttore Alessandro Scillitani. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. A presto e grazie a tutti. Ciao. Con Sergio Visinoni di Lab 80, curatore del programma Il Grande Sentiero, Habitat, Culture e Avventure, giunto alla 10ª edizione a Bergamo e Nembro dal 10 novembre all'8 dicembre. Sergio, ben trovato. Grazie mille. Parlaci di questo evento. Allora, Il Grande Sentiero è una rassegna cinematografica, ma non solo. È anche un momento in cui si possono fare degli incontri, si può ascoltare della musica dal vivo, ci sono molte cose che avvicinano all'ambiente della montagna. Il sottotitolo del Grande Sentiero è Habitat, Cultura, Avventure. Fin dalla prima edizione abbiamo voluto dare un'impronta molto larga, non vuole essere un racconto della montagna solo dal punto di vista alpinistico, ma anche dal punto di vista di chi la abita, di chi ci lavora, insomma è un po' un punto di vista molto ampio. E appunto siamo alla 10ª edizione, ogni anno Il Grande Sentiero si allunga di qualche tappa e anche quest'anno abbiamo diverse cose in programma, diverse cose molto interessanti che appunto arricchiscono questa esperienza. Ci racconti un po' come sarà articolato? Allora, Il Grande Sentiero si svolge sia a Bergamo, in due luoghi principalmente, che sono l'Auditorium di Piazza Libertà e la sede del CAI di Bergamo, che è il Palamonti, e poi ha anche delle tappe nel paese di Nembro, che è vicino a Bergamo, in Valle Seriana, in particolare l'Auditorium modernissimo del comune di Nembro e la sede del GAN, che è un'associazione di nembresi. Abbiamo come apertura una specie di anteprima questo sabato con l'incontro con Baldovino Midali, che è un fotografo appassionato, non professionista, ma che da oltre 30 anni esplora le sue valli cercando di raccogliere con la macchina fotografica le bellezze e restituirle a chi magari la montagna non la frequenta. E ci sarà una mostra allestita al Palamonti, quindi la sede del CAI, e un incontro con lui sabato 10 alle ore 21. E da lunedì invece partiamo con la vera e propria rassegna cinematografica in Auditorium di Piazza Libertà. Apriamo con il film di Messner di quest'anno, che si chiama Holy Mountain. Dico di Messner perché non è un film su Messner, ma proprio girato da lui. Beh, lui è il regista e ci racconta una storia di 30 anni fa, una spedizione in cui lui era il capo spedizione, e che invece è una specie di impresa antieroica, vorrei dire, nel senso che non è la solita conquista di una vetta inviolabile, ma piuttosto la rinuncia della conquista per andare a salvare un'altra spedizione che era in difficoltà. E quindi ha raccontato questa storia attraverso riprese fatte ex novo, quindi fiction, e delle immagini invece d'epoca, a quell'episodio, inedite, assolutamente inedite, molto belle, molto belle. Sarà tutti i giorni? Allora, dal 12 novembre al 16, sì, tutte le sere in Auditorium c'è un film, anche più di uno in alcuni casi, e dopodiché appunto la rassegna proseguirà a Nembro per chiudersi poi l'8 dicembre ancora a Bergamo, al Palamonti, con un incontro molto particolare questo. Si chiuderà infatti con l'incontro con Andy Holzer, che è un alpinista non vedente, che però è autore di imprese non da poco, è stato sull'Everest, è un personaggio molto particolare, che ha scritto anche un'autobiografia che si chiama Gioco d'Equilibrio, tradotta in italiano, molto molto interessante. Credo che sarà bello provare a capire come vive la montagna uno che è in grado di percepirla attraverso altri sensi che non sono la vista, che invece siamo abituati ai bei panorami, ecco, ci racconterà come si fa a stare in montagna e a viverla attraverso altre sensazioni. Credo che sarà molto bello. E per quanto riguarda le fasce orarie, indicativamente? Sempre la sera, in alcuni casi quando la programmazione è un po' più lunga partiamo alle 20:45, se no alle 21. Comunque il programma dettagliato si trova sul nostro sito www.labottanto.it, oppure sì, anche cercando Grande Sentiero si trova subito e ci sono tutti gli orari. Comunque è sempre la sera. Allora, ricordiamo, 10ª edizione del Grande Sentiero, Habitat Culture Avventure, a Bergano e Nembro dal 10 novembre all'8 dicembre. Un saluto e un ringraziamento al curatore del programma, Sergio Visinoni di Lab 80. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie mille, a presto. Con Floriana Pinto del Blue Desk per parlare della terza edizione del Female Touch, il tocco femminile nel cinema, in più luoghi della città. Floriana, ben trovata. Grazie, grazie per avermi, insomma, riospitato. Raccontaci. Allora, sì, siamo giunti alla terza edizione e questa edizione, come anticipavi tu, si apre un po' alla città, perché sono sempre 10 incontri, ma suddivisi, c'è questa bella apertura al macro asilo, dove torneremo poi per la chiusura del 2 dicembre, e poi un'incursione, diciamo, a metà percorso il 24 di novembre alla Cineteca Nazionale. Quindi l'apertura è prevista per il 1 di novembre alle 18, con questa bellissima avventura nel cinema muto, perché per la prima volta avremo un film restaurato, e non solo, appunto, dal 1922, un'opera bellissima del cinema muto, ma è super inerente al tema, perché è stato realizzato dalla prima donna regista italiana, Elvira Notari, e musicato con le musiche di Enrico Melozzi, e avremo come ospite Daniela Currò, che ha seguito il restauro perché è la prima conservatrice donna della Cineteca Nazionale. Quindi quest'anno abbiamo le prime donne in tanti ambiti e ruoli, insomma è bello riscoprire anche ciò che è stata la prima regista donna italiana, che io non conoscevo, quindi ammetto la mia, diciamo, defaianza su questa cosa. Quindi insomma spero che sarà partecipata come anche le altre in seguito. È ingresso gratuito, sono 140 posti, quindi se il tempo lo permette, non avete di meglio da fare, insomma penso che sarà davvero una bella serata, ecco. Per quanto riguarda le date, come sono organizzate? Allora sì, quest'anno abbiamo appunto questa incursione dei luoghi, che differisce dagli altri anni perché si è sempre svolta da noi a Blue Desk, e quest'anno ecco l'apertura si farà al macro, e il 3 invece ecco si torna a Blue Desk in via Orazio Cogli numero 5 con Daria D'Antonio, che è la prima donna, pare strano dire sempre la prima, l'unica, però insomma direttrice della fotografia, diciamo forse non dico la prima, ma insomma ci sono veramente pochissimi casi di direttrice donna italiana, e Daria D'Antonio con La pelle dell'orso, che si farà da noi a Blue Desk, e poi si riprenderà il weekend successivo sempre da noi a Blue Desk per 7 appuntamenti. È un po' difficile, sembra macchinoso da dire, perché appunto questi tre luoghi d'innesto, appunto bellissimi luoghi della cultura della città, però andando su www.bluedesk.it c'è, cioè il programma completo, insomma, e quindi si possono controllare insomma sia le date che le ospiti e i luoghi, ecco, sostanzialmente. Sì. Una cosa che ci tengo a dire è che veramente quest'anno tante novità, e oltre appunto ospiti di rilievo, ci sarà anche un'incursione musicale a Blue Desk, perché sarà ospite Nora Orlandi, che è stata la prima compositrice donna di musiche per film, e qui amo citare che addirittura Tarantino le ha utilizzato il tema principale del film che poi proietteremo, che è Lo strano vizio della signora Ward, su Kill Bill 2. E lei ha espressamente chiesto di avere un piano a disposizione. disposizione, quindi sicuramente ci regalerà delle chicche, insomma, quest'anno è un'edizione abbastanza movimentata. Ecco, proprio a questo proposito, ricapitoliamo, quanti sono gli eventi e in quali luoghi? Sì, allora, spero di essere il più chiaro possibile. L'apertura e la chiusura, quindi il 1 novembre e il 2 dicembre ci faranno al Macro Asilo di Vianezza. Il 24 novembre saremo in Cineteca Nazionale, quindi di Colo del Puttarello, vicino alla Fontana di Trevi, e poi tutti gli altri incontri, i 7 incontri rimasti, saranno a Blue Desk, mi avrazzo proprio dei 5. C'è appunto il remind al sito, perché così, oppure anche sui social, su Facebook è più pratico, insomma, c'è una locandina che, salvandola sul telefono, dà subito l'input degli incontri, veramente delle serate che io ritengo delle chicche uniche, gli incontri anche con le ospiti. Non so se l'ho detto, che ci sarà appunto un focus su Lina Nerli Taviani in Cineteca Nazionale il 24 novembre, e proietteremo due film molto diversi tra loro, a cui lei ovviamente ha lavorato e ne ha curato i costumi. Uno è Chaos dei Fratelli Taviani e poi Enrico IV di Bellocchio. Li abbiamo scelti perché, oltre, diciamo, a raccordo con i costumi, c'è anche Pirandello, perché sono, insomma, tratti da Pirandello. E quindi, insomma, questo. Benissimo. Di essere stata più chiaro possibile. Seguiteci sui social, c'è tutto, e veniteci a trovare, perché ne vale la pena, ecco. Allora, ricordiamo questa terza edizione del Female Touch. Un saluto e un ringraziamento a Floriana Pinto, che ne è curatrice. Floriana, un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Grazie a te, Federico. Un abbraccio, a prestissimo. Ciao. Grazie. Questo è lo spazio cinema su Radio Onda Rossa, con interviste su film, festival e rassegne in forma registrata. Ogni giovedì dalle ore 14 l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.